Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Chiesta la chiusura della prima sezione del carcere di Udine per far partire i lavori di riqualificazione. A 100 anni dalla fondazione, il Collegio Don Bosco di Pordenone ripercorre un secolo di attività di formazione dei suoi allievi. Un regista che con le sue pellicole ha segnato la storia del cinema, il Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano ha premiato Costa Gavras. Il gruppo Fai Giovani di Trieste organizza visite insolite all'università, al comune e al Palazzo del Governo di Trieste. Calcio, 2 sconfitte per Udinese e Triestina nei campionati di Serie A e C. Alle 8:30 minuti e 30 secondi di domenica 20 ottobre, un cordiale buongiorno dalla Razzani Armando Mucchino, voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto la pagina del tempo, cielo poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 7, Trieste e Udine 16 gradi, Pordenone 15 gradi e 5 decimi, Gorizia 14, Tolmezzo 13 gradi, Forni di Sopra 11 gradi e mezzo, Piancavallo 10 gradi e 5 decimi, Tarvisio 9 gradi. Gradi e mezzo, in quota sullo Zoncolan 8 gradi e sull'Ussari 5. Tornando sulla costa, Grado e Lignano 16 gradi e 5 decimi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sulla zona montana cielo variabile, specie verso Alpi e Prealpi Carniche. Sulla fascia orientale soffierà bora, ma in progressiva attenuazione. Il mancato avvio del progetto di riqualificazione della prima sezione del carcere di Udine al piano terra fa chiedere al garante dei diritti delle persone private della libertà personale la sua chiusura. Per la casa circondariale di Udine è tempo di grandi lavori di ristrutturazione, dai quali però resta al momento escluso proprio uno degli spazi che più ne avrebbero bisogno, la sezione prima al pian terreno. Un progetto di riqualificazione in realtà già c'è, ma è impossibile avviarlo. Andrea Sandra, garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Udine. Abbiamo una situazione particolare con il primo piano, con la prima sezione che è al piano terreno del carcere, dove sono detenuti 57 reclusi in condizioni di palese inagibilità edilizia proprio. Per questa sezione è già stato previsto lo stanziamento per la ristrutturazione, ma una ristrutturazione che non si fa perché il PRAP, cioè l'organismo amministrativo deputato, ha risposto che non c'è lo spazio per mettere i detenuti che attualmente vivono quella sezione. Una motivazione inaccettabile per il garante, che ha dunque lanciato una nuova mobilitazione online per chiedere l'immediata chiusura della sezione. Sarebbe davvero un peccato, si sostiene nel documento, che il miracolo che si sta realizzando a Udine con una ristrutturazione che offrirà spazi per attività e socialità venisse messo in pericolo. Dalle 10 cominceranno le operazioni di disinnesco e neutralizzazione di una bomba d'aereo di 112 kg nei pressi della stazione ferroviaria di Nova Gorizia, a poca distanza dal confine nazionale. Per consentire l'effettuazione in sicurezza dell'intervento a cura degli artificieri della Protezione Civile slovena, a partire dalle 7 fino al termine delle operazioni è stata disposta l'evacuazione della zona rossa, inclusa nel raggio di 600 metri dal luogo in cui si trova l'ordigno. Le operazioni di evacuazione si concluderanno entro le 9. La sala consigliare di Trasaghis ha recentemente ospitato, oltre al suo consiglio comunale, anche quelli di Bordano, Cavazzo Carnico e Esopo per discutere del progetto del condotto di derivazione delle acque dello scarico del lago di Cavazzo per portarle nel sistema irriguo del consorzio. I 4 consigli comunali hanno espresso la loro opposizione a questo progetto per il pesante impatto sull'ambiente, in quanto la condotta passerà sotto la falda freatica del tagliamento, provocando sconosciute conseguenze sui pozzi di Molin del Bosso del CAF, che fornisce acqua potabile a una 40 di comuni. Ulteriore motivo di contrarietà sono le notevoli variazioni del livello del lago proprio nella stagione turistica. I consigli comunali hanno evidenziato che questo nuovo sistema di derivazione farà affluire complessivamente più acqua verso il lago, contribuendo quindi a intensificare il riversamento di fanghi e l'ulteriore diminuzione della temperatura dell'acqua. I consigli comunali hanno espresso richiesta alla Regione di realizzare una condotta bypass che convogli le acque gelide, torbide e fangose che dalla centrale vengono versate nel lago direttamente a valle del lago. A 100 anni della fondazione, il Collegio Don Bosco di Pordenone ripercorre un secolo di attività dedicato alla formazione umana e spirituale dei suoi allievi. Molti illustri ex studenti hanno partecipato alle celebrazioni nel segno del grande sacerdote che ha dedicato la sua vita ai giovani. un secolo di educazione e sviluppo sociale. Il Collegio Don Bosco di Pordenone celebra i 100 anni di attività educativa e pastorale al servizio del territorio. Fondata nel 24, la scuola ha formato la classe dirigente della città. A teatro, nella giornata celebrativa, tanti illustri ex allievi, promuovendo non solo formazione intellettuale, ma anche crescita umana e spirituale dei giovani. Il vicario del Rettore Maggiore, Don Stefano Martoglio. Quando si celebra un centenario si mette sempre in prospettiva di futuro ciò che è stato perché continui ad esserlo, sapendo leggere i segni dei tempi e rigenerando quelle che sono le forme pastorali nel segno dell'educazione, della preparazione del futuro tramite le giovani generazioni. Oggi conta 510 iscritti tra primaria e secondaria di primo grado, il liceo chiuso nel 2020, con dati in controtendenza e iscrizioni in crescita, specie per le medie. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Unione Sindacale di Base di Trieste, con l'adesione di altre forze politiche e sociali del territorio, ha organizzato una manifestazione davanti alla Prefettura, in Piazza Unità d'Italia. Una mobilitazione che si è svolta anche in altre città del paese contro il DDL 1660. Una misura che, ha ricordato l'UBS, introduce una trentina di modifiche al codice penale, formulando 20 nuovi reati, estendendo sanzioni e aggravanti e in alcuni casi ampliando le pene previste per reati già esistenti. E questo, hanno detto i manifestanti, ci porta verso un modello istituzionale che non prevede spazi di protesta. Hanno dato la propria adesione rappresentanti, partiti e movimenti di sinistra, escluso il PD. Il Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano ha premiato ieri sera al Miela di Trieste Costa Gavras, regista di pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Una vita dedicata al cinema sotto il segno della libertà. 91 anni portati con eleganza ad altri tempi, il regista greco-francese Costa Gavras è a Trieste in occasione del 39esimo Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano, che ha deciso di conferirgli il premio Salvador Allende. Una figura, quella del presidente cileno deposto con il colpo di stato di Pinochet, che il cineasta ha conosciuto di persona. È un grande onore ricevere questo premio. Penso che Allende sia stato un uomo politico eccezionale, che all'epoca mise in campo una politica del tutto nuova e che gli è costata la vita. Le nostre società ne dovrebbero trarre ispirazione per cercare di essere più unite, invece che sempre più divise in modi anche violenti. Quello di Costa Gavras è stato spesso classificato come cinema politico o impegnato, una definizione che il regista rivendica. Tutti i film sono politici, tutti i film sono engagati. Tutti i film sono politici, sono impegnati, perché si rivolgono a migliaia, a volte a milioni di persone. Si prende un impegno nei confronti dello spettatore, perché lo si vuole incontrare e per quello che si vuole dire sulla società di oggi. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Weekend alla scoperta di tre luoghi speciali normalmente chiusi al pubblico, quello organizzato dal gruppo Fai Giovani di Trieste. Un'iniziativa riguarda l'Università di Trieste. All'interno dell'Ateneo c'è la Pinacoteca, custodita nelle stanze del Rettorato. Si potrà anche entrare nell'Aula Bachelet per ammirare dalla loggia la vista che si gode sul Golfo di Trieste. C'è poi il Palazzo del Municipio, sede del Comune di Trieste, che apre le porte della Sala del Consiglio Comunale. La visita prosegue nel Salotto Azzurro, sede istituzionale del Sindaco. Infine c'è il Palazzo del Governo. Sarà possibile attraversare i saloni di rappresentanza e accedere alla loggia che dà su Piazza dell'Unità, fino alla grande sala da ballo e allo studio del Presidente. Visite oggi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Passiamo allo sport, al calcio. Sconfitte entrambe le maggiori formazioni regionali. In Serie A l'Udinese perde di misura a San Siro contro il Milan, ma può recriminare per il gol del possibile pareggio segnato in pieno recupero, ma annullato dal VAR per un fuorigioco millimetrico. In Serie C la Triestina sprofonda in una crisi che sembra senza fine. Allo Stadio Rocco finisce con un sonoro 0-2 contro la Virtus Verona, con gli alabardati rimasti in 10 da metà del primo tempo e contestati sonoramente dai tifosi alla fine. A San Siro la spunta il Milan su un'Udinese sfortunata e penalizzata dal VAR con molte polemiche. Decide il gol di Chukwueze nel primo tempo con i rossoneri che stringono i denti e mantengono il vantaggio giocando in inferiorità numerica per un'ora. I friulani, dopo un primo tempo in ombra, sprecano nella ripresa e hanno qualcosa da recriminare soprattutto su alcuni interventi di Pavlovic. Nel recupero l'Udinese esulta al 95esimo per il gol di Cabasele. Il VAR però ricontrolla e richiama Chiffi. C'è il fuorigioco dell'alluce del piede di Ekelenenkamp. Il Milan torna a vincere in campionato superando in classifica proprio i friulani. In Serie C non finisce la crisi della Triestina, battuta allo Stadio Rocco anche dalla Virtus Verona per 0-2, settima sconfitta in 10 gare. A metà primo tempo Vertainen, già ammonito per proteste, ferma ingenuamente una ripartenza ospite, finendo anzitempo negli spogliatoi. La Triestina viene punita al primo vero tiro in porta degli ospiti. De Marchi al 34esimo si inventa un eurogol dai 20 metri con un destro che sbatte sulla traversa e si insacca. Alla Ballati pericolosi a metà ripresa con un colpo di testa del debuttante Olivieri deviato. Nel quinto minuto di recupero sale anche il portiere Ross su calcio d'angolo per provare il tutto per tutto. Dalla respinta della difesa nasce un contropiede con Gatti che insacca il gol del raddoppio e accende la forte contestazione del pubblico nei confronti della società e del direttore sportivo Menta. Giorgio Bear, TGR Friuli Venezia Giulia. A 60 anni dalla prima edizione si tiene oggi a Spilimbergo il trofeo di judo Città del Mosaico. Livia Liberatore ne ha parlato con Elisabetta Fratini, ex atleta olimpica e fondatrice del judo club Fenati Spilimbergo. È ad oggi il trofeo privato più vecchio d'Italia. All'inizio della sua storia era un trofeo prettamente maschile e con l'andare degli anni abbiamo aggiunto i ragazzi, i cadetti e gli esordienti e abbiamo unito il trofeo femminile, il Memorial Professoressa Adriana Taiberi, che ugualmente è la gara femminile più vecchia, più longeva d'Italia. Quest'anno nell'insieme ci sono 300 atleti. Da quali nazioni arrivano? Ungheria, la squadra ungherese degli Anuari è una delle squadre che viene da più anni, hanno vinto il trofeo per 20 anni e sono praticamente di casa. Oggi c'è qui un uomo, un signore ormai, che fa l'arbitro internazionale in Ungheria e che farà i mondiali master tra 15 giorni negli Stati Uniti e che veniva qui quando aveva 12 anni. Alle 8.41 vediamo la rassegna stampa. L'apertura del Piccolo di Trieste è dedicata al vialone in Porto Vecchio, il cantiere che sta cambiando il volto della zona. In partenza i sondaggi per il parco lineare, corsa contro il tempo per la scadenza del 2026. Interrate le tubature nell'area nord, il primo strato di asfalto, il nodo dell'acqua negli scavi. Per la cronaca il processo per violenza sessuale su un'allieva in aula docente del conservatorio e poi i vecchi bunker di Opicina imbrattati dai vandali con il conseguente stop alle visite guidate. Accanto una richiesta di ripiazza alla soprintendenza, la statua di Santin va posizionata nel pronao della chiesa. Nella fotonotizia centrale la Barcolana Special che durerà 3 giorni, si tratta dell'edizione con la nave della Marina Italiana. Già Lut vanno coinvolti tutti i circoli. Accanto una vicenda curiosa avvenuta in un istituto dell'Altipiano, porta la capra a scuola, la preside mette il divieto e di piede lo sport con il calcio di Serie C, settima sconfitta, Unione nell'abisso. La carta di Lorenzo diventa nazionale, iniziativa in memoria dello studente vittima di un tragico incidente durante l'ultimo giorno di stage in un'azienda. E questo è il titolo principale della prima pagina del Messaggero Veneto di Udine, oggi in edicola. Nel sommario si legge che ci sarà il sì di Confindustria, martedì la firma di Orsini, il presidente degli industriali, per un lavoro più sicuro. Sopra una fotonotizia da San Siro con il titolo «L'Udinese fa soffrire il Milan». Tornando in città abbiamo poi che per Piazza 20 settembre sarà proposta una ZTL a fasce orarie. C'è un tecnico dell'azienda sanitaria a cui sono stati inflitti 9 anni per il traffico di droga, tecnico che ora ha perso il lavoro. Nella colonna di destra foto ai funerali del codroipo dell'allenatore Matiusi e in taglio alto un titolo dedicato alla raccolta di plasma che vede il Friuli Venezia Giulia al vertice nazionale, argomento di cui ci siamo occupati anche noi ieri. Go 2025, le idee dei giovani è il titolo di apertura del Piccolo di Gorizia e Monfalcone, il contributo dell'Ateneo in vista della capitale della cultura. Gli studenti di architettura ripensano gli spazi urbani puntando su infopoint, bar e aree verdi. Sotto il nuovo Bombadei, 4.192 persone da evacuare e il funerale del primo cittadino in migliaia a San Pier per l'ultimo saluto al sindaco Bignolin. Per l'ambiente Turriaco punta sugli alberi monumentali del Parco Isonzo, di taglio le prossime amministrative a Monfalcone, Sinistra e Civici lanciano Bullian, sfida intestina con Moretti. Di piede infine un nuovo brand, nasce il profumo che parla del Collio. La conta dei danni del maltempo nel titolo principale della prima pagina dell'inserto del Gazzettino di Pordenone, che in sommario aggiunge che Sacile sono iniziate le valutazioni su cosa non abbia funzionato e che prosegue con il monitoraggio regionale delle frane. Delle 7 puntualmente attive la più pericolosa è a Clauzetto. Cronaca nelle colonne di sinistra con il titolo "Lancia un petardo, gli scoppia in mano, si amputa un dito", vittima un 46enne che partecipava a una festa privata ad Azzano Decimo. Fotonotizia di centropagina dedicata al Bronx, al sospetto della presenza di amianto nell'edificio. Reazioni e valutazioni del sindaco recente Rigi. Per l'economia la notizia che in regione l'evasione è tra le più basse di tutta Italia e per la sanità invece che gli errori in corsia nel 2023 in regione sono costati all'azienda sanitaria 2,5 milioni. Un evento dedicato all'arte e al pensiero di confine fra Italia e Slovenia è il Festival dei Sogni Selvatici che si tiene oggi nel paese di Ucea di Resia. Nel programma, a partire dalle 10, una passeggiata, la proiezione di documentari e cortometraggi e un concerto finale. Una delle organizzatrici, Verdiana Morandi, ha raccontato come nasce questa iniziativa nell'intervista di Livia Liberatore. Il Festival dei Sogni Selvatici nasce dalla volontà di dare un palcoscenico a quegli artisti e fondamentalmente a tutte quelle persone che hanno intenzione di continuare a radicarsi in un territorio. A differenza di altre iniziative che guardano molto al passato e alle proprie origini, noi invece vogliamo dire che ci sono tantissime persone che arrivano e tantissime persone che guardano avanti, che conoscono e imparano a conoscere il nostro territorio e qui trovano del magico. È proprio questo magico che ci sembra avere grande forza e grande vitalità. Perché cos'è che spinge una persona a continuare a venire a Ucea se non un sogno, una volontà di avere qualcosa che ci muove oltre, non ci sono altri motivi, quindi noi vogliamo orientarci al futuro e vedere cosa succede. In questo ci aiutano gli artisti che hanno trovato nell'ultimo paio d'anni a Resia la propria casa o che sono resiani, oppure che appunto arrivano e qui trovano una serie di immagini e sensazioni e ispirazioni e le hanno volute condividere con noi. Si commemora oggi lo storico fondatore del Centro Balducci di Zugliano, Don Pierluigi di Piazza, in un incontro sulla sua tomba al cimitero di Tualis alle 14:30. Ci saranno canti, momenti di spiritualità, letture di testi di Pierluigi e le testimonianze di associazioni ed enti attivi nel volontariato sul territorio. A Trieste è il giorno della tradizionale Corsa dei Castelli sul percorso di 10 km dal Castello di Miramare fino al Castello di San Giusto. Il via è previsto alle 9:50, seguiranno le partenze dell'Attennum Competitiva e Family Run a 8 km con arrivo in Piazza Unità. Fino alle 14 saranno in vigore modifiche alla circolazione veicolare e divieti di transito nelle strade interessate dalla gara. Si tiene oggi l'iniziativa Ville e Chiese Aperte in Friuli Venezia Giulia, saranno aperte al pubblico con la possibilità di effettuare anche visite guidate, 11 ville e 14 chiese tra Manzano, Butrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariaco e San Giovanni al Natisone. Le informazioni sugli orari di apertura dei luoghi si trovano sul sito internet del Distretto del Commercio del Friuli Orientale. A Casarsa della Delizia una giornata di eventi organizzati dal Comune. Si comincerà alle 10 con la prima mostra mercato del disco usato nella ex sala consiliare. Dalla stessa ora il mercato di prodotti tipici locali in Piazza Italia e via 24 Maggio. A seguire il tour di moto d'epoca, un incontro di scambio di libri nel giardino di Palazzo Burovic Desmajevic. Tutte le iniziative sono elencate sul sito del Comune. Siamo ora ai programmi radiofonici della nostra sede. Alle 9:15 la prima puntata della Nemica in Giallo, un originale radiofonico scritto da Gianni Gori in occasione delle celebrazioni dei 90 anni della radio italiana e realizzato con la regia di Mario Mirasola. La programmazione televisiva regionale propone invece alle 9:15 Alpe Adria Magazine di ottobre con un servizio di Silvia Rossetto su un brano lagunare, Vida Valencic su una storia dalle Dolomiti friulane e Alessandra Tortosa dall'Alto Adige ci parla del canyoning. Nel documentario Contrappunto 03 di Antonio Pillosio, 5 installazioni d'arte contemporanea con le loro creazioni rileggono le opere custodite nelle collezioni permanenti di Casa Cavazzini, Museo dell'Arte dell'arte moderna e contemporanea a Udine. E alle 8:49 minuti e 20 secondi era la nostra ultima notizia. Ha collaborato in redazione Samantha Gon, per la parte tecnica Federico Comar. Da Lara Razzani e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.